Storie italiane. Le scarpe rosse. In una piccola capanna, situata in un villaggio, viveva una bella bambina di nome Karen. La dolce bambina abitava assieme a sua madre. Karen era povera e non aveva scarpe da indossare. Indossava sempre delle scarpe di legno che sua mamma aveva realizzato appositamente per lei. Le scarpe erano dure e i piedi di Karen erano sempre doloranti. Passarono i giorni e la mamma di Karen si ammalò gravemente. Karen passava tutto il suo tempo a prendersi cura di sua madre. Un giorno, tornando a casa, Karen trovò un paio di scarpe rosse riposte in una scatola. La scatola era vicino alla strada. Karen era entusiasta di quelle scarpe rosse, così decise di portarle a casa. Purtroppo però sua madre non era felice di vedere quelle scarpe rosse. Karen, non devi mai prendere nulla che trovi per strada. Potrebbe appartenere a qualcuno. Questo significa rubare. Magari qualcuno sta cercando queste scarpe rosse. Mamma, dovevano stare più attenti. Adesso sono mie. Oh, Karen, non essere così testarda, figlia mia. So che siamo povere e che non posso comprarti delle scarpe nuove, ma la nostra povertà non deve farci fare cose sbagliate. Promettimi che non indosserai mai queste scarpe rosse. Karen era triste. Non poteva deludere i moniti di sua madre. Così promise che non avrebbe mai indossato le scarpe rosse. Il tempo passava, ma Karen non riusciva a smettere di pensare alle scarpe rosse. La mamma non capisce. Se queste belle scarpe sono state lasciate sulla strada, nessuno ne ha bisogno. Una settimana dopo, la madre di Karen morì a causa della sua malattia. Karen era molto, molto triste. Ma lei fece qualcosa di insolito. Al funerale di sua madre, Karen indossò le scarpe rosse. Tutti al funerale fissavano i piedi di Karen. Ma a Karen non importava. Lei adorava le sue scarpe. Proprio allora, una vecchia signora stava passando accanto al funerale con la sua carrozza. Era una gentile vecchia signora. Quando apprese che la ragazza era rimasta orfana, decise di adottare Karen. Oh, mia povera bambina! Vieni con me. Ti darò una casa dove vivere e del buon cibo. Devi studiare tanto e farti un nome per vivere. Oh, cosa indossi ai piedi? Perché li hai indossati ai funerali di tua madre? Sono brutte. Toglile. No, mi piacciono tanto. Sono mie. Oh, bambina, non essere così testarda. Ti darò io un bel paio di scarpe da indossare. La vecchia signora costrinse Karen a togliersi le scarpe rosse. Karen era triste perché dovette togliere le sue scarpe rosse. La vecchia signora non aveva figli. Trattò Karen come sua figlia. Le regalò una stanza e nuovi abiti da indossare. Karen ebbe anche un nuovo paio di scarpe, ma queste erano di colore blu. A Karen mancavano le sue scarpe rosse. Pensava ad esse continuamente. Ma perché nessuno mi fa indossare le mie belle e adorate scarpe rosse? Un giorno le indosserò e poi nessuno potrà fermarmi. Gli anni passarono e Karen crebbe, divenne una bellissima ragazza. Mentre cresceva, anche il suo carattere testardo aumentava. Karen era una ragazza molto capricciosa. Non mi piacciono queste verdure, voglio il riso. Ma ho preparato questo delizioso pranzo e tu non lo vuoi nemmeno assaggiare? No, piuttosto morirò di fame. La vecchia signora amava Karen e non voleva che morisse di fame. Cedeva sempre alle sue richieste irragionevoli. Il tempo passava. Tutti i vecchi vestiti di Karen e le sue scarpe blu erano ormai strette e logore. La vecchia signora si rese conto che doveva comprare nuovi vestiti e scarpe per Karen. Quando entrarono in un negozio per comprare le scarpe, Karen vide un paio di scarpe lucide e tutte rosse. Oh, che belle! Sono come quelle che indossavo quando ero piccola! Le voglio! Oh, ancora con le scarpe rosse! Karen, compra quelle che puoi indossare sempre. Che succederebbe se dovessimo partecipare a un funerale? Non puoi indossare le scarpe rosse a un funerale, è irrispettoso. Ho pochi soldi, non posso comprarti due paia di scarpe. Torneremo a casa a piedi. I piedi mi fanno male e non posso camminare. Ma Karen era così felice di vedere le sue scarpe rosse. Non ascoltò una sola parola. Non mi interessa, le adoro e le voglio. Se non le compri, allora camminerò a piedi scalzi per il resto della vita. Non essere così testarda, figlia adorata. Questo un giorno ti costerà. Ma Karen non ascoltò. La vecchia signora dovette comprare le scarpe rosse. Comprò anche un paio di scarpe nere per Karen. La vecchia signora non aveva più soldi e dovette tornare a casa a piedi. Per tutto il tempo, la vecchia signora si acquattò per il dolore. Karen ballava, saltellava, rideva e cantava, senza prestare nessuna attenzione ai piedi doloranti della povera vecchietta. Il giorno dopo, la vecchia signora si recò ad un funerale. Karen, dobbiamo andare a un funerale in città. Vieni con me, ma non indossare quelle scarpe rosse. È irrispettoso. Karen andò nella sua stanza e guardò le scarpe nere. Poi guardò le scarpe rosse e le indossò. Si nascose i piedi sotto la lunga gonna, perché non voleva che la vecchia signora vedesse le scarpe rosse. Durante tutto il funerale, la gente continuava a guardare i piedi di Karen. Sorsero dei pettegolezzi sulla ragazza, perché non mostrava rispetto ai morti. Qualche voce giunse all'orecchio della vecchia signora. La vecchia signora era molto furiosa. Afferrò la mano di Karen e se ne andò dal funerale. Oh, che ragazza testarda! Cosa hai fatto? Ti avevo chiesto di non indossarle per il funerale. Perché non ascolti mai? Queste sono le mie scarpe. Le indosserò quando mi pare e piace. Un vecchio soldato di passaggio osservò l'intera scena. Mentre la vecchia signora e Karen cominciarono a camminare verso la carrozza, raggiunse Karen, si inginocchiò e sussurrò alle scarpe. Sarete testarde come non mai. Con la magia danzerete e non vi fermerete mai. Il vecchio soldato accarezzò i piedi di Karen. Oh, signore, per favore si alzi, che cosa fa? Oh, stavo solo ammirando le tue bellissime scarpe da ballo. Tu devi essere una brava ballerina. Karen era soddisfatta. Voleva mostrare al soldato che era davvero una brava ballerina. Cominciò a danzare e muovere qualche passo di danza prima di salire sulla carrozza con la vecchia signora. Ma... Oh! Perché continuo a ballare? Perché non mi fermo? Cosa mi sta succedendo? Oh, Karen, cosa fai? Torna subito qui! Ma Karen non smise di danzare e se ne andò lontana. Le scarpe rosse non ubbidivano più. Erano testarde come lei. Condussero Karen nella foresta e persino sulle montagne. Ballavano continuamente. I piedi di Karen erano esausti, così come la sua schiena era dolorante a causa della danza. Non poteva dormire o mangiare. Le mancavano la sua casa e il suo letto. Le mancava molto la vecchia signora, ma le sue scarpe non si fermarono mai. Karen ballava, notte e giorno. Oh, qualcuno mi aiuti! Sono stanca! Nessuno poteva venire in suo aiuto. Karen era molto spaventata. Le scarpe la portarono in mezzo ai rovi e i suoi piedi erano lacerati dalle ferite. Infine Karen riuscì a togliersi le scarpe rosse. Le scarpe erano stregate, continuavano a ballare. I piedi di Karen erano ora mal ridotti. Non poteva camminare senza l'aiuto di un bastone. Oh, mi fanno male le gambe. Voglio andare a casa. Karen riuscì in qualche modo a raggiungere la sua casa e le scarpe rosse danzanti la seguirono. La vecchia signora era felice di vedere Karen. Le diede del cibo e la fece riposare. Il giorno dopo, Karen voleva andare al mercato. Ma quando aprì la porta, trovò le magiche scarpe rosse proprio sul gradino. Stavano ballando e impedivano a Karen di uscire di casa. Sia la vecchia signora che Karen furono sorpresi nel vedere quelle scarpe da ballo. così Karen capì che era tutta colpa sua. Non avrei dovuto essere così testarda nella mia vita. Sono stata testarda come le scarpe rosse. Non posso uscire di casa. Non posso andare a scuola o al mercato. Non posso andare da nessuna parte. Mi sento così triste. Cosa faccio adesso? Oh, cara, perché non preghi affinché le scarpe magiche spariscano per sempre? Se sei veramente dispiaciuta per il tuo comportamento, la tua preghiera sarà esaudita. Karen iniziò a pregare, pregare, giorno e notte. Quando aprì gli occhi, fu sorpresa nel vedere il vecchio soldato, conosciuto quel giorno al villaggio, in piedi dinanzi a lei. Ragazza mia, sono felice che tu abbia imparato la lezione. Poiché finalmente hai abbandonato la tua testardaggine, anche le scarpe rosse spariranno. Pronunciate queste parole, il soldato svanì, e così fecero le scarpe rosse. Karen e la vecchia signora erano felici e tranquille. Karen decise di studiare duramente e non lasciare mai che delle scarpe rosse entrassero di nuovo nella sua vita. Non siate testardi, piccoli bambini. Un giorno vi costerà caro.